Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Vi porgo i saluti anche da parte di Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli, che sono in redazione con me, e Filippo Aureggi, in parte registica. Allora, vi ricordo immediatamente le coordinate per interagire con noi: 349-238-6666 per porre domande o commentare i tanti temi che toccheremo quest'oggi. Twitter, cinguettate pure all'indirizzo Giampaz oppure Nessun Luogo 24. Infine Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Lo avete sentito anche dal GR, il caso Marò oggi e nei prossimi giorni terrà banco dopo la decisione del Tribunale di Amburgo ed è lì che io vi porto. For these reasons, the Tribunal, by 15 votes to 6, prescribes, pending a decision by the Annex 7 Arbitral Tribunal, the following provisional measures under Article 290, paragraph 5 of the Convention. E la voce che sentite è quella di Vladimir Golitsyn, che è il presidente del Tribunale Internazionale del Mare di Amburgo, che stava leggendo alcune ore fa la lunga sentenza. Fondamentalmente il verdetto recita che Girone non rientra, ma l'India non è competente a pronunciarsi su quello che è accaduto oramai più di 2 anni fa. Il Tribunale di competenza sarà all'Aia, respinte però le richieste di libertà per i due fucilieri. Gli analisti già stanno iniziando a scrivere e a commentare questo verdetto, si dice per l'Italia una vittoria a metà. Prima di entrare tra le pieghe e le tante pagine di questa sentenza, e lo faremo col professor Giuseppe Nesi, professore di diritto internazionale, preside della facoltà di giurisprudenza a Trento. Professor Nesi, buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Ecco, professor Nesi, ricapitoliamo insieme le ultime tappe del caso dei Marò. Febbraio 2012, la petroliera italiana Enrica Lex incrocia la rotta del peschereccio St. Anthony al largo delle coste del Kerala. Vengono esplosi dei colpi d'arma da fuoco dalla petroliera, 2 pescatori rimangono uccisi. La versione italiana, solo colpi d'avvertimento. 19 febbraio, Massimiliano La Torre e Salvatore Girone vengono arrestati con l'accusa di omicidio. 22 febbraio, l'Italia presenta una petizione per fare cadere l'accusa, invocando il difetto di giurisdizione indiano e l'immunità funzionale dei Marò. 25 maggio, viene concessa la libertà su cauzione con il divieto di lasciare la città di Kochi. 20 dicembre, accolta la richiesta di un primo permesso per le festività natalizie in Italia. 9 marzo 2013, New Delhi avvia la procedura per la costituzione di un tribunale speciale. 11 marzo, il ministro degli esteri Giulio Terzi annuncia che i 2 militari in Italia su permesso di 4 settimane non torneranno in India. Nuova Delhi limita la libertà dell'ambasciatore italiano. 23 marzo, i Marò tornano in India e il ministro degli esteri Terzi, in disaccordo, annuncia le dimissioni. 12 settembre 2014, La Torre viene rimpatriato per motivi di salute e non tornerà più in India. 26 giugno 2015. L'Italia attiva l'arbitrato internazionale presso la Corte Permanente di Arbitraggio dell'AIA. 10 e 11 agosto, prima udienza ad Amburgo, presso il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. 24 agosto, data stabilita per il verdetto. E puntuale è arrivato il verdetto di quest'oggi, che adesso cercheremo di analizzare col professor Nesi, che insegna diritto internazionale all'Università di Trento. Professor Nesi, un primo commento su questa sentenza, che peraltro è molto lunga. Noi ci siamo sentiti nel corso della giornata e mi stava raccontando che ci ha impiegato un po' non solo per leggerla, ma anche per addentrarsi nei cavilli, è il caso di dirlo, no, di questa sentenza. Sì, devo dire che appunto in vista del nostro appuntamento ho cercato di capire bene quale era stato il ragionamento seguito dal Tribunale del Diritto del Mare dell'AIA, che, è bene ricordarlo, era chiamato a adottare o comunque a valutare la richiesta di adozione di misure provvisorie in relazione a 2 faccende, due questioni fondamentali. La prima era quella proprio riguardante la eventuale adozione di ulteriori misure da parte dei tribunali, ma in realtà ovviamente si trattava semplicemente dei tribunali indiani, non di quelli italiani, in merito alla vicenda dei Marò. E la seconda questione invece, per, diciamo, per l'Italia più importante, è quella del rilascio del Marò Girone e della possibilità per il Marò Lattore di rimanere in Italia. Sì. Ebbene, ribadire, come avete ben fatto nel riassunto, che era comunque una richiesta di adozione di misure provvisorie, perché il merito riguardo alla giurisdizione, cioè a chi dovrà poi in realtà giudicare della vicenda, è affidato a un tribunale arbitrale che sarà costituito sempre secondo le regole del Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare. Quindi era questa fase, una, diciamo, un'ulteriore tappa della lunga odissea che riguarda i due Marò. Questa fase era una fase, se vogliamo, nella quale il Tribunale era chiamato semplicemente a valutare delle due precise richieste. Ora, su una, quella cioè della necessità che si tenesse conto degli obblighi degli Stati di non aggravare la controversia, i termini della controversia, mi sembra che sia stato un giudizio molto chiaro da parte del Tribunale di Amburgo. Ed è un verdetto adottato peraltro con 15 voti a favore e 6 contrari, sì, che chiaramente dice che le parti si impegnano a non procedere nella adozione di atti giudiziari che potrebbero complicare la controversia. Sull'altra questione, che è quella che forse stava anche più a cuore ovviamente al nostro paese, invece il Tribunale di Amburgo mi pare abbia assunto una posizione pilatesca, nel senso che non si è voluto pronunciare, o meglio lo ha fatto dicendo che, ma lo ha fatto, diciamo, per negazione, cioè non prendendo posizione sulla richiesta, sì, dicendo semplicemente che non intendeva entrare nel merito della controversia. Ma mi pare di poter dire, ecco, a primissima lettura, che il merito della controversia non era ovviamente l'eventuale rilascio dei Marò oppure la possibilità per uno di loro di rientrare in patria, e l'altro dovrebbe rimanerci. Il vero problema è, cioè, il merito della questione è chi dovrà esercitare la giurisdizione. C'è stato per questo parlavo di atteggiamento un po' pilatesco. Il Tribunale non si è pronunciato sulla seconda richiesta dell'Italia, ha semplicemente detto che non voleva entrare nel merito della questione, quindi non ha trattato molto semplicemente la questione. Il fatto che l'AIA diventerà competente a pronunciarsi significa qualcosa in particolare? Significa che non è che diventerà, ecco, se mi posso permettere, direi che la questione, sì, sarà portata al tribunale, a questo tribunale arbitrale, che è un tribunale costituito con determinate procedure nelle quali gli stati in controversia hanno ovviamente una forte voce in capitolo, potendo nominare gli arbitri e decidendo anche quali possono essere le regole di procedura, ma il giudizio in quella sede verterà su chi avrà giurisdizione, cioè chi potrà giudicare in merito a quanto avvenuto nel 2012. Sì. Quindi non è l'operato di questo tribunale arbitrale riguarderà semplicemente chi dovrà giudicare, dopodiché, una volta che questo sarà stato deciso, conformemente a questa decisione si procederà. E quindi sembra di capire che i tempi si allunghino enormemente, che l'orizzonte temporale diventi veramente vasto. Quali saranno i prossimi passi, in che tempi soprattutto, professore, secondo lei? Io non ho ovviamente la sfera di cristallo, quindi è difficile immaginare di dare dei termini precisi. C'è un problema, il problema ovviamente è che, contrariamente a quello che si è letto in passato, non c'è il pieno accordo dell'India a che questo tribunale arbitrale eserciti le proprie funzioni. Quindi sono ahimè certo che l'India farà di tutto per ostacolare da un punto di vista procedurale il cammino di questo tribunale arbitrale che deve essere ancora costituito. Sì. Ecco, se ci fosse una volontà comune è chiaro che le cose potrebbero anche essere molto, molto rapide, ma temo che non sarà così. Ecco, professore, vediamo se ho capito bene. In buona sostanza questo tribunale, che ovviamente è terzo rispetto ai due soggetti che si confrontano, sarà pienamente efficace sino a quando i due soggetti che si confrontano attribuiranno a questo terzo piena legittimità. Quindi c'è anche un problema politico sotto. Ecco, allora mettiamo i termini della questione in maniera forse ancora più chiara. È una procedura, quella della quale stiamo parlando, molto complessa, infatti viene definita forse insomma, in maniera non del tutto appropriata dal punto di vista tecnico, una sorta di arbitrato obbligatorio. Cosa significa? Significa che c'è una disposizione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che prevede che in determinate circostanze, a ricorrere di determinate condizioni, due stati che siano parti della Convenzione, che siano in controversia, possano chiedere l'intervento del Tribunale arbitrale. E questo è quello che l'Italia ha fatto nello scorso mese di giugno. Sì. Da qui però alla costituzione del Tribunale, alla definizione del modus operandi, del modo di funzionare del Tribunale, e poi una volta che il Tribunale sarà stato creato, alla definizione di un verdetto, e temo che mancando la volontà delle parti, quindi dovendo necessariamente immaginare che chi vorrà ostacolarne il tragitto adopererà tutti gli strumenti procedurali a propria disposizione, sì, io temo che i tempi non saranno brevissimi. È stato chiaro sulla non chiarezza di questo processo, nel senso che ha ampie zone evidentemente di grigio, ma tutta la vicenda fin dall'inizio, ai noi. Professore, prima di salutarla, ringraziarla, lasciarla al suo lavoro, la posso provocare un po'? Quando parlerà ai suoi studenti, quando rientrerà in aula, credo a settembre, quando parla o parlerà di questo processo, di questo dossier, diciamo, lo porterà come caso di che cosa? Di lungaggine del diritto internazionale? Lo userà come paradigma di qualcosa? E questo è un caso che, come molti casi del diritto internazionale, ma mi permetterei di dire anche del diritto interno, ha una sua notevole complessità. Complessità che è ovviamente accresciuta dalla natura stessa del diritto internazionale, che è un diritto fra stati. Quindi cercherò di far capire ai miei studenti, prendendo ad esempio questa vicenda, di come possono essere affrontate delle controversie internazionali. Ora, in realtà gli argomenti, io credo che si possa scrivere un trattato su quello che è successo negli ultimi 3 anni e mezzo, sì, ma non è questo quello che ovviamente interesserà i vostri ascoltatori. Forse interessa molto di più sapere quando e come questa vicenda si concluderà. È una vicenda forse, come abbiamo detto anche in altre circostanze, nata male, proseguita peggio, che oggi ha un momento di sintesi, ma purtroppo non è un momento di sintesi definitivo, è un momento di sintesi che mette un punto sulla questione quantomeno dell'invito alle autorità indiane, alle autorità giurisdizionali indiane a fermare la macchina giudiziaria in attesa del giudizio che verrà poi dato dal Tribunale arbitrale, ma allo stesso tempo potrebbe creare ulteriori incertezze e ulteriori complessità su un caso che purtroppo appunto non ha i crismi della chiarezza, che ce ne sono tanti di casi riguardanti il diritto internazionale. Questo sicuramente non è uno di quelli più limpidi, più lineari. In quest'ultima tappa, la tappa che stiamo commentando oggi, credo che sia però una tappa ancora più se vogliamo ancora più complessa rispetto all'intera vicenda, perché in questa circostanza forse si sarebbe da parte del Tribunale potuto pervenire a una decisione interlocutoria, ma che facesse salvi alcuni principi generali. In particolare si poteva per esempio immaginare che la custodia dei due fucilieri venisse affidata a un paese terzo in maniera provvisoria, interlocutoria. Sì. Questo forse sarebbe servito a smorzare gli animi e anche a dare maggiore elasticità, maggiore possibilità al negoziato che credo proceda parallelamente alla vicenda giudiziaria di raggiungere risultati concreti. Certo. Professor Nesi, è caso di dire a questo punto la risposta al tempo. Io la ringrazio del tempo che ci ha concesso. Professor Nesi insegna il diritto internazionale a Trento e preside anche della Facoltà di Giurisprudenza. Buona giornata e buon lavoro, professor Nesi. Grazie, buongiorno e arrivederci. Buonasera. (349) 238 6666 per i vostri commenti, Twitter Giampaz oppure Nessunluogo24, Facebook Nessunluogo Lontano trattino Radio 24. Alcuni ascoltatori che commentano respingendo al mittente alcuni dei titoli che vi leggevo, alcune delle analisi, altro che vittoria a metà, dice un ascoltatore, India 2, Italia 0. Sono qua a leggere se avete voglia di continuare a commentare il tema dei Marò. Adesso però voltiamo decisamente pagina e andiamo a Beirut. I suoni che sentite sono quelli di due giorni di dure proteste. La capitale libanese ha vissuto un weekend ad alta tensione, tutto è nato per proteste derivanti dal mancato smaltimento dei rifiuti urbani, una cosa che andava avanti da parecchie settimane e che aveva reso l'atmosfera, il caso di dire, di alcuni quartieri della capitale libanese irrespirabile. Poi però a seguire l'hashtag che è quello più di tendenza, che è YouStink, che è l'hashtag utilizzato dagli organizzatori di questa protesta, letteralmente tu puzzi, si va a scoprire che in gioco non c'è soltanto il mancato smaltimento dei rifiuti, ma anche un durissimo jacuzzi, un dito puntato sul governo libanese, sulla corruzione che serpeggia all'interno della leadership politica e sulla mancanza di decisioni degli ultimi mesi, se non anni. E allora do il mio buongiorno, il mio ben ritrovato a Nessunluogo Lontano, a Lorenzo Trombetta, lo potete leggere sull'Imes, è il corrispondente dell'ANSA, del Medio Oriente, fra l'altro autore del libro Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre, che vi consiglio caldamente di leggere se volete comprendere qualcosa in più di quel puzzle incredibile che è appunto quella fetta di Medio Oriente. Lorenzo, buongiorno, ben ritrovato a Nessunluogo Lontano. Buongiorno. Allora, Lorenzo, ascoltiamo insieme una sinteticissima fotografia del paese e poi ci aiuterà a capire se quella protesta, quei rifiuti sono la punta di un iceberg e che iceberg. Il Libano è una repubblica semipresidenziale indipendente dal 1943. Nonostante conti solo 4 milioni e mezzo di abitanti, per via della sua posizione geografica è stata spesso al centro dei conflitti mediorientali. Dal 1975 al 1990 il paese è stato teatro di una sanguinosa guerra civile, durante la quale è diventato un terreno di battaglia per i suoi vicini, Siria, Israele e Palestina. La presenza militare di truppe siriane si è conclusa solo nel 2005, in seguito alle proteste per l'assassinio del primo ministro di Beirut, Rafik Hariri, di cui è stato accusato proprio il governo siriano. I partiti anti-siriani hanno ottenuto la maggioranza in Parlamento, ma dal 2014, per sanare le fratture politiche interne, si è resa necessaria la creazione di un governo di unità nazionale. capo dell'esecutivo è stato posto il primo ministro ad interim, Tamam Salam. Prima dello scoppio della crisi siriana, il Libano aveva fatto registrare segnali di ripresa, grazie anche alle sue potenzialità turistiche. L'afflusso dei rifugiati siriani, che ad oggi hanno superato il milione, ha però nuovamente messo in ginocchio le fragili istituzioni statali. Dal 22 agosto, le strade di Beirut sono teatro di una violenta protesta sociale. E il bilancio di questa protesta è di almeno 400 feriti e una persona morta. Ho appena sentito la Croce Rossa libanese che dal canto suo mi ha detto di aver dispiegato almeno 100 volontari, 20 ambulanze, ha impiantato un ospedale da campo nella zona delle proteste, hanno curato 59 feriti e hanno effettuato 343 operazioni di primo soccorso. Questo per dare un'idea delle dimensioni anche della protesta. Lorenzo Trombetta, aiutaci a capire di questo iceberg. Si è partiti con la spazzatura, però poi si punta il dito contro l'esecutivo. Sì, la spazzatura, come accennavate voi, da studio è soltanto uno dei problemi più impellenti. Ce ne sono molti altri, tutti legati alla lottizzazione politico-confessionale che da decenni è pratica nel paese. Oggi la crisi della spazzatura, ed è sicuramente uno dei temi che unisce maggiormente la società civile, perché appunto è una questione che riguarda tutti, ma una questione annosa è quella dell'acqua. Il Libano non dà ai propri cittadini, le autorità libanesi non offrono ai propri cittadini dell'acqua corrente, né tantomeno durante i mesi estivi, i caldi mesi estivi le autorità libanesi non offrono al cittadino libanese l'acqua che serve giornalmente. L'acqua è razionata, altrettanto razionata l'energia elettrica, questo in tutti i mesi dell'anno. Beirut, i quartieri più benestanti di Beirut hanno un blackout giornaliero di 3 ore, ma nelle zone più depresse questo blackout arriva anche a superare le 18 ore, quindi sì. C'è una proliferazione delle mafie dei generatori, delle mafie di chi vende acqua privatamente e anche in questo caso chi offre delle discariche abusive private. Questo tutto sotto lo sguardo compiacente dei vari leader politico-confessionali che hanno i loro uomini a governo. Da decenni si spartiscono di un paese piccolo o grande quanto l'Abruzzo. Sì, fra l'altro noi, Lorenzo, adesso vediamo se la borsa incombe o se abbiamo tempo di sentire i Mad Bazzi. Noi, spulciando su Twitter, appunto seguendo l'hashtag che dicevo prima, è You Stink, cioè tu puzzi letteralmente, abbiamo raggiunto un po' di attivisti, gente che era in piazza in questi 2 giorni. Uno di questi, i Mad Bazzi, che è uno degli organizzatori, a quale abbiamo chiesto, appunto, inizialmente questa protesta sembrava derivare soprattutto dal problema spazzatura, ma poi ha assunto connotati molto molto più complessi. Sentiamo insieme la sua voce, Lorenzo, poi la commentiamo. When we first went on the streets to protest, it was about the garbage crisis in Lebanon, because things were not sustainable. Allora, i Mad Bazzi dice: quando abbiamo iniziato la protesta si riferiva al problema della spazzatura in Libano, perché la situazione non è sostenibile. Il governo stava cercando di distribuire un nuovo accordo tra i politici. Ognuno di loro aveva una parte nell'accordo e questo è un modo per corrompere i politici. Così noi siamo scesi in strada per chiedere le dimissioni del ministro dell'Ambiente e esercitare il nostro diritto di chiedere che questo nuovo accordo sullo smaltimento dei rifiuti non abbia l'obiettivo di essere vantaggioso per i politici, ma per permettere piuttosto alle aziende di fare un buon lavoro. Abbiamo deciso di portare le nostre proteste fino al Parlamento, ma la polizia ha iniziato a usare gli idranti, proiettili di plastica, lacrimogeni nella piazza. Non siamo potuti entrare nel Parlamento perché gli scioperanti sono stati fatti arrestare dall'elite politica corrotta libanese. Inoltre il governo libanese ha dato ordine appunto ai poliziotti di sparare sulle persone. Qua ovviamente intende cannone d'acqua, proiettili di plastica. 65 persone sono state ferite, uno di loro è in gravi condizioni, riferisce i Mad Bazzi, ma molto probabilmente si riferiva alla persona che poi è morta. Noi speriamo che si riprenda, ma le condizioni di questo ferito sono estremamente gravi. Ecco, Lorenzo, adesso abbiamo l'informazione finanziaria, stai con noi, poi torneremo a parlare della protesta a Beirut. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati a Nessuno Luogo Lontano, stiamo parlando delle proteste di Beirut che per due giorni nel centro della capitale libanese ha visto fronteggiarsi cittadini e forze dell'ordine. Si protestava per l'assenza di smaltimento della spazzatura, ma anche per l'assegnazione degli appalti per lo smaltimento della stessa, puntando il dito contro i politici che, insomma, in buona sostanza, sintetizzando le parole di Imad Bazzi, un libanese che abbiamo raggiunto, uno degli organizzatori della protesta, fondamentalmente attuavano il magna magna su questi stessi appalti. Siamo con Lorenzo Trombetta, che è corrispondente per l'IMES, corrispondente per l'ANSA del Medio Oriente, analista per l'IMES e autore del libro Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre. Lorenzo Trombetta, anche il business dei rifiuti è parte, insomma, di questa strisciante corruzione che esiste ai noi nella politica libanese, è stato uno dei motivi scatenanti, ci stavi raccontando prima, no? Sì, dalle nostre latitudini, mi riferisco a quelle libanesi, medio orientali, la corruzione non è più nemmeno una pratica negativa, è la normale conduzione degli affari politico-economici del paese. Ci sono questi leader locali che poi, tramite le forme istituzionali occidentali, quindi le elezioni, il governo, il Parlamento, che sono un po' delle vesti che ricoprono, che danno una legittimità occidentale alla loro pratica di governo locale e nazionale, sì, appunto gestiscono un potere locale e lo portano poi a Beirut come rappresentante in giacca e cravatta o senza cravatta per quelli, sì, filo iraniani, e in nome di questa apparente legittimità istituzionale governano e sono al potere, ma di fatto non sono altro che dei capi bastone, che dei leader clanico-tribali o di grandi famiglie, un po' come avviene nel sud Italia. Di fatto ci sono dei capi mafiosi che governano il Libano da decenni, al di là delle loro differenze ideologiche, appunto sotto questa categoria di leader mafiosi rientrano cristiani e musulmani senza alcuna differenza, si spartiscono il potere e la società civile libanese, che nel contesto medio orientale, dobbiamo dirlo, è una delle più avanzate, non come quella egiziana, ma ha comunque registrato negli ultimi decenni tanti successi rispetto ad altre società civili dell'area, ogni volta che tenta di rialzare la testa, e le proteste dei giorni scorsi sono state uno di questi esempi, trasversalmente, sì, al di là delle divisioni confessionali e politiche, ovviamente la strategia della tensione, gli infiltrati, i black bloc, nel caso medio orientale non sono i black bloc di Genova o delle, sì, capitali europee, ma sono cecchini di Hezbollah o di altri partiti che partecipano al governo e che hanno tutto l'interesse a salvare questo governo, si sono infiltrati, tanto è vero che dopo gli episodi sanguinosi di ieri, tra l'altro alcune fonti libanesi, tra le polizie libanese smentisce che quella persona sia morta, comunque dopo gli scontri sanguinosi di ieri ovviamente Imad Bazzi e tutti gli altri organizzatori hanno dovuto fare un passo indietro, hanno sospeso, ma di fatto hanno cancellato la mobilitazione. Ecco, infatti senti che cosa dice Imad Bazzi quando ho chiesto appunto se per il momento hanno fermato le proteste. No, we did not stop the protest. E lui, diciamo, aggiusta la risposta, dice: no, non è che fermiamo le proteste, però ci stiamo riorganizzando, pronti a tornare in strada, perché quando hai protestato per svariati giorni di seguito devi poi riorganizzare le persone, devi riorganizzare la protesta prima di tornare nuovamente in strada. Inoltre dice: dobbiamo lavorare nuovi discorsi pubblici, fare nuove richieste. Visti gli arresti pensavamo anche di non tornare in piazza a manifestare fino a quando tutti gli arrestati non saranno rilasciati, e questo suona anche già come una contraddizione. Inoltre chiediamo, continua uno degli organizzatori, a chi ordina ai militari di sparare sulle persone che venga arrestato e fermato. E poi conclude dicendo una cosa molto, molto interessante, Lorenzo, che già dicevi tu fondamentalmente, e dice: questa è la più grande protesta non settaria e apolitica degli ultimi 20 anni, perché chi protesta appartiene a diversi partiti politici. Quindi questo è il primo e più grande movimento di protesta che coinvolge diverse parti politiche del paese. A quel punto allora gli ho detto, forse gettando il boccino un po' troppo avanti, ma si può parlare di una specie di primavera araba libanese? Sentite cosa dice. Not necessarily, because the Lebanese situation is really complex. E come sentite, lui dice non necessariamente, perché la situazione libanese è molto complessa, ma siamo arrivati a un punto di svolta dove i movimenti civili stanno iniziando a crescere dopo anni e anni di depressione. Le persone non ce la fanno più, non hanno elettricità, non hanno acqua, tutto funziona come la questione dei rifiuti, è il momento in cui le persone si stanno organizzando sui social media. Allora, Lorenzo Trombetta, piena conferma a, come dire, alla lettura che davi tu, ma non avevo dubbi. Ho sbagliato quando ho accomunato la primavera araba a questo timido germe, che in realtà non si sa bene di cosa, perché vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Però questo fatto che non esiste più, non esiste il settarismo, almeno non c'è una connotazione settaria della piazza, mi sembra un fatto molto importante. Sì, ma dobbiamo ricordare che il Libano già nel 2005 è stato teatro della cosiddetta primavera di Beirut, che per molti, secondo molti osservatori, è stata un elemento precursore, un evento precursore dei movimenti di protesta popolari del 2010 e del 2011, che poi a livello mediatico li hanno chiamati primavere arabe. Anche all'epoca, ovvero le proteste contro l'occupazione militare siriana in Libano, poi successivamente contro l'assassino di Rafik Hariri, l'avete ricordato nella scheda iniziale, anche all'epoca c'era una connotazione fortemente trasversale, non confessionale, diciamo di società civile, ma nel contesto libanese, come accade oggi, io non la penso come Imad Basi, non sono così ottimista, sì. Questi alti e bassi, questi tentativi della società civile, che rimane comunque una minoranza in Libano, non è la massa dei libanesi, tornerà alle proprie case con la sconfitta in mano. Questa riorganizzazione delle proteste, questa revisione della strategia della mobilitazione, di fatto la sconfitta. Una volta che c'è il sangue per strada, i libanesi tornano a casa. Perché? Perché i principali partiti, che non sono delle entità che vengono da Marte, sono profondamente radicate nel territorio e hanno la possibilità di muovere le pedine, di muovere i libanesi, la massa dei libanesi. Quindi una volta che Hezbollah dice ai propri, e sono tantissimi, sì, queste manifestazioni sono contro i nostri interessi, la manifestazione finisce. Tutti gli sciiti che devono in qualche modo avere la scuola e l'ospedale pagato da Hezbollah, domani si ritirano dalla piazza. E questo accade per tutti gli altri. Quindi Imad Basi e tutti gli altri sono, giustamente, hanno tutta la vitalità e l'ottimismo per sperare di continuare a vivere in un paese migliore, il loro paese, ma chi conosce il Libano da tanti anni sa che questo è soltanto un altro episodio in cui la società civile alza la testa, ma qualcun altro gliela stacca. Allora, 349-238-6666, c'è chi con scoramento dice: speriamo proprio, visti i risultati delle per nulla spontanee primavere arabe, che il Libano non ne sia interessato. Max, per esempio, tra gli ascoltatori. Però Lorenzo, stai con me ancora un minuto, perché ti faccio sentire l'ultima risposta di Basi, a quale ho chiesto se l'obiettivo finale di queste manifestazioni alla fine sia politico, arrivare a nuove elezioni o far cadere gli attuali politici. Sentite che cosa dice. Our new strategy and our new goals and tactics says that. E lui dice: la nostra nuova strategia, il nostro nuovo obiettivo è portare il governo e il ministro dell'interno a dimettersi, perché non è possibile che in Libano si spari e si uccidano le persone per strada. Vogliamo anche nuove elezioni parlamentari, perché questo Parlamento è incostituzionale, perché hanno esteso il mandato senza elezioni. Dovevamo andare a elezioni 2 anni fa, ma allora hanno esteso questo mandato 2 volte, violando il diritto al voto dei cittadini. Vogliamo un nuovo governo, una nuova legge elettorale ed essere sicuri che i politici corrotti non entrino più in Parlamento. L'attuale sistema elettorale è fondato su divisioni settarie. Lorenzo Trombetta, corrispondente dell'ANSA da Beirut, analista per l'IMES, autore del libro sulla Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre. Un ultimo slogan per chiudere, anche se, come dire, hai gettato un velo di pessimismo su questa possibile primavera libanese. Andare ad esempio a nuove elezioni è uno scenario plausibile o troppo lontano secondo te, visto quello che è accaduto? Sì, assolutamente non è plausibile. Le elezioni in Libano non sono decise dai movimenti di piazza, sono decise da un insieme di volontà politico-confessionali locali e regionali. L'Arabia Saudita, l'Iran e tutti gli altri padrini degli attori libanesi assolutamente non consentiranno uno scenario del genere. All'ascoltatore che ha commentato: speriamo che non sia un'altra primavera araba, evidentemente derubricando tutte le primavere arabe, sì, come causa di mali e di guerre, le ricorderei di leggersi la storia degli ultimi 100 anni del Medio Oriente per vedere che non basta 3, 4, 5 anni per giudicare un fenomeno molto più complesso e che avrà dei risultati assai più positivi di quelli che appaiono adesso. La rivoluzione francese fu seguita da 30 anni di terrore, quindi è un po' presto per derubricare le primavere arabe come causa dei mali del Medio Oriente. Ci sono molti meno dittatori in giro, e questa comunque è una buona notizia. Il periodo che stiamo vivendo è un lungo periodo di transizione, i nostri nipoti vedranno gli effetti positivi, noi stiamo in mezzo al guado. E vabbè, con un po' di positività almeno nel lungo termine ti lasciamo. Grazie mille Lorenzo Trombetta, analista per l'IMES, corrispondente dell'ANSA. Ricordo il suo libro Siria, dagli ottomani all'Assad e oltre. Buona giornata Lorenzo e buon lavoro. Buona giornata, grazie. Questa era la lunga pagina dedicata agli scontri di piazza, alle proteste di piazza di Beirut. Lorenzo Trombetta ci ha aiutato nella lettura, difficile perché il Libano è una realtà davvero davvero complessa. Adesso l'informazione sul traffico, poi indovinate dove vi porto dopo le strade. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Quello che è appena trascorso lo potremmo ribattezzare un tranquillo weekend paura. Perché? Perché venerdì Pyongyang, siamo in Corea del Nord, il presidente aveva dichiarato lo stato di quasi guerra. Tutta la storia che cerco di riassumermi e di raccontarvi quest'oggi era iniziata ad inizio di questo mese, ad inizio di agosto, quando due soldati sudcoreani erano rimasti feriti per l'esplosione di due mine. A quel punto Seul aveva reagito attivando degli altoparlanti che inneggiavano ovviamente pro Sud Corea contro Nord Corea, cioè facevano propaganda a tutti gli effetti nella zona dei villaggi di confine come risposta, come ritorsione appunto a questa a questo ferimento dei due militari. A innalzare, a far salire la tensione, però è successo che nel weekend vi è stato un intenso scambio di colpi di arma da fuoco, non solo leggera come già era avvenuto in altre occasioni. Noi stessi, Nessun Luogo Lontano, qualche stagione fa abbiamo raccontato, è quasi un appuntamento dell'estate, il riacuirsi della tensione fra Nord Corea e Sud Corea, però questa volta quello stato di semiguerra aveva davvero allarmato la comunità internazionale. A questo punto le due delegazioni hanno iniziato a incontrarsi e pare, almeno a sentire, a leggere le agenzie, che la frattura si stia ricomponendo. La Corea del Nord è uno dei paesi meno raccontati, è uno dei regimi più difficili anche da inquadrare. Chi l'ha fatto è stato Mark Wiese con questo documentario che si chiama Camp 14 Total Control Zone. Sentite. I would like to return to North Korea, my home, to a labor camp for prisoners. E la narrazione di Camp 14 Total Control Zone è un documentario di Mark Wiese che è fondamentalmente incentrato sulla vita di un ragazzo nato e cresciuto in un campo nordcoreano, quei terribili, temibili campi di lavori forzati in cui gli oppositori del regime finiscono a centinaia, a migliaia. Look at my arms. È molto difficile indagare questo paese e anche cercare di raccontarlo, allora ci soccorrerà in questa analisi il professor Antonio Fiori, che è docente di politica e istituzioni della Corea e dell'Asia orientale all'Università di Bologna. Professor Fiori, buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie mille per l'invito. Allora, professor Fiori, noi ci siamo già sentiti in passato perché sembra che quasi con una cadenza svizzera in estate vi siano momenti di tensioni e grandi proclami, spesso dai toni allarmistici, però questa volta c'è stato qualcosa di diverso o mi sbaglio? Allora, prima di tutto le faccio un appunto, Musumeci, nel senso che in Corea del Nord non c'è un presidente, l'attuale leader non funge da presidente, la carica di presidente è morta, completamente defunta con la scomparsa del nonno dell'attuale leader, quindi l'attuale leader non è nient'altro se non il primo segretario del partito. E fa bene a fare l'appunto, perché è stato errore mio. No, assolutamente, ma molti pensano che le cose stiano in quei termini, invece la carica presidenziale non esiste più. Lui è per l'appunto primo segretario del partito, nonostante sussuma in sé tutte principali cariche istituzionali, sì, della Corea del Nord. Quello che è successo non è nient'altro se non una riproposizione di questioni che avevamo visto già in passato. Lei ha perfettamente ricostruito i fatti. Fondamentalmente lo scontro armato che c'è stato nei corsi giorni era potenzialmente rivolto da parte nordcoreana proprio all'abbattimento di uno o più degli altoparlanti che la Corea del Sud aveva piazzato nella sua parte di pertinenza della zona smilitarizzata. Ricordiamo che sono altoparlanti che per una mutua decisione erano stati eliminati ormai da 11 anni, sono stati riposizionati dalla Corea del Sud, e gli altoparlanti naturalmente si concentrano sulla diffusione di notizie riguardanti le questioni regionali, le questioni globali e il problema principale, che includono anche la partecipazione di una rifugiata nordcoreana che è scappata dalla Corea del Nord e ha trovato rifugio in Corea del Sud, in cui fondamentalmente si racconta di come questa persona sia riuscita a fuggire. Adesso lei capisce immediatamente che la diffusione di questo tipo di notizie all'interno di un paese che fa dell'autoisolamento o del parziale autoisolamento una dottrina sostanziale, certo, è particolarmente pericoloso, certo, quindi deve essere combattuto. Certo, l'effetto potrebbe essere dirompente. Professore, abbiamo cercato di sintetizzare quello che è la Nord Corea, lo ascoltiamo insieme. La Corea del Nord, o Repubblica Democratica Popolare di Corea, è uno dei paesi meno conosciuti al mondo sotto il profilo sociale, politico ed economico. Nato dalla scissione nel 1945 dai territori del Sud, lo Stato si definisce di matrice socialista, anche se di fatto è una dittatura militare e totalitaria di stampo stalinista, con un culto della personalità elaborato intorno agli esponenti della famiglia Kim. Kim Jong-un, l'attuale leader, ha ereditato il potere nel 2011 in seguito alla morte del suo predecessore, Kim Jong-il. Il mito dell'autosufficienza è la caratteristica principale del paese, che ha blindato i propri confini. La rigidità dello Stato nordcoreano nei rapporti con i paesi stranieri risale agli anni 50, fatta eccezione per la Cina e la Russia, con le quali ha costanti scambi commerciali. Nel dicembre 2013 Amnesty International ha documentato l'esistenza, anche attraverso l'utilizzo di immagini militari, di grandi campi di prigionia politica. Il numero dei detenuti, secondo Amnesty, si aggirerebbe sulle 200.000 persone, tra cui si contano anche dei bambini. Human Rights Watch ha definito i nordcoreani come uno dei popoli più brutalizzati al mondo. La Corea del Nord e quella del Sud hanno siglato una tregua al termine della guerra degli anni 50, ma mai ratificato una pace ufficiale. La tensione tra i due paesi torna così a riaccendersi periodicamente. Gli analisti ritengono tuttavia molto difficile che questi contrasti possano evolvere in una guerra su larga scala. L'attuale crisi è stata originata dall'esplosione di una mina nella zona demilitarizzata che corre lungo il confine. Due soldati sudcoreani sono rimasti feriti nell'esplosione. Allora, siamo col professor Antonio Fiori, docente di politica e istituzioni della Corea dell'Asia Centrale all'Università di Bologna, uno dei più profondi conoscitori di quella realtà, al quale giro immediatamente una considerazione, anche dopo aver ascoltato la fotografia. Ma prima deve bacchettarci su qualcosa, professore, andava bene la... No, assolutamente. Allora, no, scherzi a parte. Allora, abbiamo capito che è un paese chiuso, è un paese isolato, è un paese che fa dell'autoisolamento il suo motivo evidentemente di forza e che periodicamente va a contrasto col suo vicino, al quale era per ragioni storiche legato. E quanto può durare questo strano equilibrio di vicini che ogni tanto litigano, quantomeno fanno finta di litigare, perché poi in realtà a me sembra che vi siano dei messaggi che vengono lanciati, no? C'è anche un linguaggio diplomatico, un linguaggio guerresco che va interpretato. È d'accordo, c'è un linguaggio sotto le righe che si stanno mandando Seoul e Pyongyang? Assolutamente, c'è tutto. Ci sono tutta una serie di simbolismi che devono essere interpretati e ci sono tutta una serie di fattori che devono essere compresi. Nello specifico, negli ultimi giorni ci sono un paio di eventi cruciali per spiegare la situazione. Il primo è che dal 17 ultimo scorso fino al 28 nell'area ci sono le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti, la cosiddetta Ulchi Freedom Guardian, e si tratta di esercitazioni su larghissima scala che coinvolgono all'incirca 80.000 soldati e numerosissimi mezzi che vengono viste in maniera diametralmente opposta. Corea del Sud e Stati Uniti lo vedono così come delle mere esercitazioni militari che pertengono alla pericolosità della Corea del Nord all'interno dell'area. La Corea del Nord invece vede questo tipo di esercitazioni come una possibilità di intervenire per abbattere il regime. L'altro fattore che fondamentalmente il 15 agosto è il giorno dell'anniversario della commemorazione della liberazione della Corea del Sud da parte dei giapponesi, quindi la fine del periodo coloniale. In quel giorno fondamentalmente la presidentessa sudcoreana Park ha tenuto il suo discorso e ha fatto capire che sostanzialmente questo tipo di politica isolazionista che è stata intrapresa dalla Corea del Sud nei confronti della Corea del Nord non avrà fine fino a quando la Corea del Nord non deciderà di smantellare il suo arsenale nucleare. Quindi ci sono dei problemi concreti che fanno sì che le due Coree sostanzialmente non riescano più ormai da molti anni a collaborare su fatti tangibili. Quanto certo potrà durare? Potrebbe finire domani con una serie di schermaglie che danno adito a una guerra aperta, potrebbe finire attraverso l'instaurazione di una collaborazione, potrebbe durare ancora per i prossimi 70 anni. E naturalmente la seconda ipotesi è quella che noi tutti ci auguriamo. Grazie mille. Antonio Fiori insegna politiche e istituzioni della Corea dell'Asia orientale all'Università di Bologna. Buona giornata e buon lavoro, professore. Grazie a voi. E io ho giusto 30 secondi per lanciare i titoli di coda. Con i quali ringrazio Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli che hanno confezionato con me questa puntata, Filippo Aureggi in regia. L'appuntamento è per domani ore 16 quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.